Adesso sarà l'intervento compagno Gioc del Tendenza Comunista Internazionalista. Ero lieto che Bob, si dice? Bobbo. Bobbo ha spiegato della natura della socialdemocrazia in Germania e anche che lui ha fatto un inquadramento del problema e anche che lui ha detto che grazie. Okay. Lui ha detto che questo problema è tanto complesso, è impossibile di prendere tutto in considerazione. Io ho l'intenzione di solo concentrare sulle spartachisti e i problemi di gennaio 1919. Ma prima di cominciare voglio dire qualcosa sul come noi studiamo la storia e dobbiamo studiare la storia senza arroganza. Noi oggi abbiamo il vantaggio di un cent'anni di riflessione su questi eventi. E se noi facciamo critiche di nostri precedenti è solo per imparare le lezioni che loro esperienze ci offrono oggi. Se noi viviamo 100 anni fa, se noi viviamo 100 anni fa, sono certo che abbiamo fatto lo stesso o forse peggio, perché questi compagni erano bravi, coraggiosi e non vogliamo criticare loro in questo senso. Come ha detto il nostro compagno onorato Damen, onore Rosa e Akal di aver tentato l'emancipazione del proletariato tedesco. Pur non riuscendovi, hanno lasciato un alto esempio di lotta e di combattività contro l'iniqua società capitalistica e la feroce dittatura borghese che li ha brutalmente assassinate. Aggiungo in questo particolare Luxemburg ha continuato a curare le edizioni di Rota Fani, la bandiera rossa, fino a pochi giorni prima della sua morte ai mani del socialdemocrazia. Comunque, la tragedia del fallimento della rivoluzione tedesca non era sentito solo in Germania, ma anche in Russia ed anche dal proletariato internazionale che in 1918, dopo 4 anni di macelleria o carnificie. Ho imparato questa parola oggi, imperialista, ero pronto a lottare per un nuovo mondo. Tutti i più famosi rivoluzionari di quei giorni, Luxemburg, Trotsky e Bukharin, hanno capito che lo stabilimento di socialismo in ogni paese isolato, e in particolare un paese arretrato come la Russia, era impossibile. Lenin ha sottolineato questo quando disse in marzo 2018 senza una rivoluzione tedesca siamo condannati a fallire. In inglese è più poetico, ma ho tradotto così. Prima di arrivare qui, siamo arrivati a Roma solo 36 ore fa, ho visto il titolo del dibattito far riferimento ad una rivoluzione degli spartachisti, ma secondo me questa occorre una precisione. Era né una rivoluzione, era un sollevamento come parte di un più lungo processo di rivoluzione tedesca, e né per la maggior parte era una rivolta sotto la direzione degli spartachisti. era il leader del Partito Socialdemocratico, come Ebert, Scheidemann, Noske, eccetera, che hanno dato gli eventi di gennaio 19 l'etichetta di una rivoluzione degli spartachisti, perché dall'inizio lo scopo della socialdemocrazia in servizio al capitale era di distruggere con violenza il giovane partito comunista che era nato solo 4 giorni prima. Il primo passo di Ebert, Noske e compagnia era una provocazione contro tutta la classe operaia rivoluzionaria in Germania. Questo era il licenziamento del presidente della polizia di Berlino, Emil Eichhorn. È un oxymoron di avere un rivoluzionario poliziotto, ma questa è la situazione. Eichhorn era una minaccia al controllo del Partito Socialdemocratico. Ma Eichhorn non era uno spartito. Lui era iscritto nel USPD o i socialisti indipendenti, il partito di Kautsky e Bernstein, come ha detto il compagno Bobo. L'USPD è un partito che era molto diviso fra quelli che volevano di rientrare nella socialdemocrazia e gli altri che in un certo modo cercavano di seguire il movimento rivoluzionario della classe operaia. Quindi era un partito confuso. E non era il piccolo partito comunista che ha risposto alla provocazione di Ebert, ma i rivoluzionari Obleute, o in italiano delegati rivoluzionari, un gruppo sotto l'influenza delle USPD che convocarono una manifestazione contro il licenziamento di Eichhorn. Un comitato era stabilito in cui ha partecipato Karl Liebknecht a titolo personale. La manifestazione ottiene una partecipazione così massiccia che quella sera i rappresentanti delle tre organizzazioni decisero di formare un comitato rivoluzionario provvisorio che includava anche Liebknecht per il Partito Comunista. A questo punto tutte le debolezze di Liebknecht dovevano così emergere. Un individuo coraggioso, ma impulsivo ed egocentrico, nel migliore dei casi, non abituato ad agire secondo la disciplina di una vera e propria organizzazione rivoluzionaria, e lui, senza consultare i suoi compagni alla guida del Partito Comunista, Liebknecht appose il suo nome e quello del partito su una dichiarazione del comitato rivoluzionario che proclamava di aver deposto il governo Ebert. Erano solo parole, poiché non c'era alcun piano coordinato su come ciò dovesse essere realizzato. Giovani membri del Partito Comunista si unirono ad altri elementi della USPD e quei proletari che avevano tanto atteso quando questa occasione occuparono a loro gli uffici di giornale e iniziarono a scontrarsi con la polizia. Da Luxemburg e i suoi compagni rimasero sconcertati. Luxemburg avrebbe chiesto a Liebknecht che ne è del nostro programma. Gli spartacisti si sono trovati intrappolati tra la necessità di disinnescare la situazione e il desiderio di non abbandonare i lavoratori già in strada. Radek, Karl Radek, che era presente a Berlino, invitò i leader del KPD a prendere le distanze del movimento, dicendo che era simile alle giornate di luglio 17 in Russia. Ma i bolscevichi in luglio erano riusciti a muoversi in maniera più disinvolta. Non voltarono le spalle al movimento, ma non lo seguirono mai del tutto. L'adesione al movimento non fu in ogni caso un grande mossa tattico, visto che portò alla messa fuori leggi del partito. Solo il fatto che i bolscevichi avessero già messo radici all'interno della classe operaia aveva consentito loro di poter resistere e riprendersi. Senza quelle profonde radici nella classe operaia, le giornate di luglio sarebbero state un disastro totale, piuttosto che una battuta d'arresto temporanea. Il Partito Comunista in Germania doveva ancora mettere radici, e in questa crisi non aveva nemmeno il controllo delle proprie forze sul terreno, per non parlare di quelle del USPD. La sua comparsa tardiva e la mancanza di una chiara struttura organizzativa e di una disciplina unite alla incapacità di condotto di fronte al furba difeso di capitalismo operato dai cosiddetti socialisti del socialdemocratici la rendeva ampiamente impreparata alla complessa situazione del 19. Il proletariato tedesco avrebbe pagato un prezzo altissimo per questo. In ogni caso, la macchina propagandistica della socialdemocrazia praticamente ignora l'esistente USPD e dall'inizio hanno dato l'etichetta ai fatti di gennaio 19 come una rivolta spartachista, accompagnando questo con un incitamento ad uccidere Luxemburg, Radek e Liebknecht nel giornale e con cartelli sui muri di Berlino. Comunque, sarebbe uno sbaglio di lasciare la sola colpa alla porta di Liebknecht. L'origine del disfatto di gennaio 19 era trovato nella mancanza di una chiara linea politica del gruppo internazionale, cioè gli spartachisti. Era evidente a Lenin e a tanti altri che il Partito Socialdemocratico in Germania ha attraversato i barricati di classe in 14 e dimostrato che questo era successo non solo con un'intenzione di sostenere l'impero tedesco, ma anche il sistema capitalista se stessa. E mentre Lenin cercava di ricostituire un partito ed un internazionale sulle basi rivoluzionarie in Russia, in Germania i rivoluzionari non hanno fatto un taglio netto con il Partito Socialdemocratico. Infatti, innanzitutto, Luxemburg ha rifiutato l'idea di rompere con il vecchio partito, con le parole: meglio il peggio partito operaio che nessun partito. E quando in 1916 Gli indipendenti hanno fatto una scissione sulla base di una posizione pacifista e non classista contro la guerra. E gli spartachisti hanno rimasto dentro questo partito secentrista senza dare un chiaro posizione per la classe. E in questo modo hanno nascosto dal proletario che c'è una vera opposizione di classe in Germania. Per essere sicuro, gli ostacoli di superare nella formazione di un nuovo partito nel corso di una guerra dove i leader principali erano in galera erano enormi, ma i bolscevichi era costretto di lavorare in condizioni peggior sotto lo stato poliziotto dello zar. La differenza è chiara. Ad ogni giorno gli spartachisti dimostravano che non hanno capito il fatto che il movimento democrazia sociale era perso alla classe operaia. Per esempio a Zimmerwald e Kiental gli spartachisti non si unì alla sinistra del movimento internazionale, ma invece hanno rimasto con i centristi e pacifisti. E questo era il radice della tragedia della rivoluzione tedesca. Con solo 10.000 iscritti in gennaio 19, in tutta Germania, in un paese diviso in molto piccoli stati diversi, non era abbastanza preparato a unire un movimento che era veramente spontaneo e rivoluzionario. Ma la spontaneità non basta. Per portare in avanti una vera rivoluzione sociale e politica abbiamo bisogno di qualcos'altro. Senza una direzione è sempre destinata al disfatto. E in un paese dove un strumento come il Partito Socialdemocratico faceva finta di essere un partito di classe, non era chiaro che succedeva in quei momenti criticali fra novembre 18 a gennaio 19. Devo tagliare qualcosa per arrivare fra il tempo. La tragedia fu ancora più grave perché se si considera che nella condizione sociale del 19 la crisi rivoluzionaria non fu superata facilmente, come dimostra la storia del 4 anni successivi. La borghesia era divisa anche sulla natura della nuova Repubblica e l'opportunità per un vero movimento rivoluzionario di sconfiggere il nemico della classe sarebbero riapparse. Ma mentre il Partito Comunista oscillava tra opportunismo e avventurismo e diventava sempre più lo strumento di un terza internazionale ormai degenerato, la KPD, che ha fatto una scissione in 20, era lacerato dal localismo, sindacalismo e consigliarismo ed era quindi destinato a scomparire con la fine della onda rivoluzionaria. Per la classe operaia, studiare la storia della sconfitta della rivoluzione tedesca proprio perché è così decisiva per lo sviluppo della rivoluzione mondiale, è deprimente, ma per le lezioni che ci ha lasciato vale probabilmente più dello studio della vittoria del bolscevismo nel 17. Ma per noi abbiamo la conferma della tesi che anche il migliore movimento della classe ha bisogno di una forma di organizzazione politica, pronto di confrontare tutte le manovre delle nostre nemici di classe e la formazione di un partito internazionale proletariato rimane la sfida per noi oggi, perché le scelte per l'umanità rimane quelle posto di Luxemburg. Socialismo o barbarie? Barbarie.